benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano. ...87.9 la modulazione di frequenza, 06 49 17 50 il contatto telefonico. Radio Africa vi tiene compagnia fino alle 18. E vi ricordo che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete sostenere questa radio, il conto corrente postale è il 61 80 40 01, intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Le Voci 56, Roma. O potete passare qui in radio a lasciare un vostro contributo o partecipare alle iniziative di sostegno alla radio o sul sito di Radio Onda Rossa, oltre a vedere notizie sulle trasmissioni e notizie varie, troverete anche la possibilità e le modalità per sostenere Radio Onda Rossa. Quindi, come dicevamo, Radio Africa fino alle 18, poi ci sarà il jazz di Soul Peanuts. Africa want to be free, like a lion in the jungle. Africa want to be free, like a bird in the sky. If you don't know, you don't know, you got to know. Oh, oh. Mama Africa is not free. E cominciamo con le nostre selezioni per questo sabato 18 di ottobre. E allora parliamo di un album uscito recentemente, si chiama Maison des Jeunes ed è presentato da African Express. African Express è un progetto che nasce nell'ottobre del 2013. Damon Albarn fa un lungo viaggio in Mali insieme a tutta una serie di musicisti, fra i quali Brian Eno, e lì incontrano dei musicisti africani, soprattutto giovani, e quindi registrano questo album. Da questo album il brano che vi voglio far ascoltare è quello di un grande musicista, un grande maestro di cora che si chiama Yacouba Sissoko. Prena. Cuba, Sissoko Band, Chanson Dengo Tapeski, prodotto da Brianino. E allora Radio Africa 87.9, la modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il contatto telefonico. Una grande artista, lei si chiama Didi Bridgewater, che nel suo album Red Heart si è confrontata con i musicisti maliani. Questo incontro fra una grande cantante jazz e la tradizione dei griot maliani, ed è stato veramente un incontro molto estremamente fruttuoso, anche perché Didi Bridgewater è andata un po' alla ricerca delle sue radici. Da questo album che lei ha fatto insieme a Umu Sangare, Mamani Keita, Fatamata Mamakuyate e tanti altri, il brano Bad Spirits, gli spiriti cattivi, insieme a Kassé Madi Diabaté, lei e Didi Bridgewater. If you Vuote insieme a Cassema di Diabaté in questo Bad Spirit. E ritorniamo all'album Maison de Gene, album registrato in una settimana in un club di giovani della città di Bamako, insieme appunto a David Alban, che già aveva fatto quei Demon Album, quello dei Gorillaz, che già aveva fatto un'esperienza con il progetto African Express, quella volta insieme a Toumani Diabaté, Sadif Keita, Amadou e Mariam. E invece qui appunto lui era insieme a Brian Eno, Nick Zinner, David McLean e appunto questi giovani musicisti maliani. Il brano che vi voglio far ascoltare è il brano di apertura dell'album, Adama Koita. Il brano è Fantai Falla Toi Bolo. Kasi tu mama se Fanta ni fala dumi kasi de muna Fanta inye jiche kasi tu mama se Ala edo aluke wariti gibaye Fanta ni fala yo kasi tu mama se Oloma fohidi alama kasitu mama se Fanta ni fala dumi kaside muna Fanta inye jije kasitu mama se Geto ronda dun fale delili Kelani bete gerebuye kasitu mama se Kasitu mama se Badalu fale delili kelani bete gerebuye kasitu mama se Getoronda du fale delili kelani bete gerebuye kasitu mama se Fanta ni fala dumi kaside muna Fanta inye jiche kasitu mama se Fanta ni fala kasitu mama se Ala edo luke wariti baye Oluma fuidi alama kasitu mama se Fanta ni fala dumi kaside muna Fanta inye jiche kasitu mama se Kasitu mama se Kasitu mama se Kasitu mama se Kasitu mama se Kasitu mama se Kasitu mama se Kasitu mama se Adama Koita in questo brano, che si intitola Fanfalla Toni Bolo, che è appunto il brano di iniziale di Maison de Gene. Sono le 16.49, voi siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa. Qualche notizia da Milano: a Milano è stata indetta una una manifestazione xenofoba dalla Lega Nord in corteo da Porta Venezia, ma i centri sociali, le organizzazioni antifasciste e antirazziste, la Milano antifascista risponde con una contromanifestazione in largo Cairoli, sono tanti gli antifascisti che in questo momento sono presenti in piazza a Milano, mentre invece i leghisti sono in compagnia dei nazisti di casa Pound e sono alcune centinaia di questi fascisti di casa Pound in mezzo al corteo dei leghisti che in attesa di arrivare a Piazza del Duomo, dove ci sarà il comizio di Matteo Salvini. Ancora una volta la Lega strumentalizza il problema dell'immigrazione, ancora una volta evidentemente a corto di argomenti e di consenso agitano questi temi, ma insomma la risposta della Milano antifascista sembra essere molto molto ferma, molto decisa e soprattutto numerosa. Poi vi terremo informati naturalmente sugli sviluppi e poi fra non molto faremo una corrispondenza, perché anche qui a Roma ci si sta mobilitando per il diritto all'abitare, manifestazione contro la speculazione, contro gli sfratti, contro gli sgomberi, contro questa attitudine del governo a risolvere un problema sociale come se fosse un problema di ordine pubblico, manifestazione cittadina che è iniziata intorno alle 15 da Piazza delle Camelie a Centocelle, quindi fra non molto proveremo a fare una corrispondenza. Nel frattempo continuiamo con la nostra selezione musicale, lui viene dal Mali, si chiama King Makassi, dice un sacco di cose su quello che succede nel suo paese, su quello che succede in Africa. Il brano è Comme on le dit chez nous e lui è King Makassi. Yes, comme on dit chez nous, toute femme met au monde son petit. Il n'y a que la parole qui enfante plus grand qu'elle. Number one, toujours en liberté. Pro du verbe, proverbe de vérité. Je ne te parle pas de l'Afrique des calamités. Écoute mon langage, c'est mon africanité. Faut pas te laisser lécher par ce qui peut t'avaler. Je viens de Farafina, ici le verbe est né. Et si la conscience peut nous aveugler, la méfiance est capable de nous aliéner. Farafina n'est qu'au Mali, n'y en comptait. Ah oui, la sique est passée. Le verbe pas cousu et de cousu l'humanité. Ce qui est sûr, rien n'est sûr en vérité. Lorsque les actes et la parole divorcent, les relations se bâtissent sur des entorses. On a beau s'appeler animal intelligent, on ne peut croquer et siffler en même temps. C'est de la parole que le noble dépend. Ni quoi que ma pain, zangana pain. Ça vient de chez nous, comme on le dit. On ne sème pas l'esprit, on le cultive. Acrobatie vocale, gymnastique mentale, parolier sismique de l'Afrique ancestrale. Cannibal sonore, cracheur verbal. Ta klingleni tomoninga klingleni fort. Ma tête en coque n'a qu'à côté de Yaké. Croque l'on dit de paix à Clément Sakoké. Une bouche fermée ne peut attiser le feu. Vérité ou mensonge d'un langage mielleux. Je traverse le village et sur le baobab je m'installe. Pro fanatique et fantaisiste verbal. Amana de Coca-Cola, y'a dans des gens comptés. Hakle washi washi de bafoka n'y en comptés. Quand tu m'as laissé né, ma y'a des gens comptés. C'est par la parole, les griots que je m'enracine. De lui je m'inspire, son aura me fascine. Amana de Coca-Cola, kangan sese. Kamono mono dabla, kan sese. L'éternel magie du verbe et ma toxine. Kuma, Radio Onda Rossa, come preannunciato, la corrispondenza dalla manifestazione cittadina contro la speculazione, gli sfratti e gli sgomberi. Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao, allora raccontaci. Allora, siamo qui, siamo già partiti in corteo da più di mezz'ora, direi, già. E ora siamo su Via dei Castani, e stiamo sfilando il corteo. Non saprei quantificare quanta gente c'è, però io direi almeno 2000 persone siamo in corteo. E presenti varie realtà in lotta, dai movimenti per il diritto all'abitare a tante realtà di zona come la rete antisfratto, ma anche le varie reti territoriali di Centocelle, del Pigneto, di Villa Gordiani, e c'è anche una nutrita presenza della comunità curda che è appena arrivata e sta iniziando già a creare momenti di solidarietà con gli altri spezzoni del corteo. E niente, il corteo, appunto, siamo ora su Via dei Castani e ci stiamo dirigendo verso Piazza dei Gerani, poi gireremo, questo per spiegare a chi magari volesse raggiungerci, gireremo su Viale delle Gardenie, arriveremo a Piazza delle Gardenie, gireremo poi su Tor de Schiavi, da lì prenderemo Via Lagni, poi Via Levano Romano, la Prenestina, e si arriverà prima sotto al municipio e poi si riproseguirà sulla Prenestina andando verso il Pigneto. Questo è un po' il percorso che è predefinito che andremo a fare. Senti, questa mobilitazione è una mobilitazione cittadina e nasce anche per continuare ad agitare il problema del diritto all'abitare, soprattutto dopo l'ondata repressiva che c'è stata e la conferma degli arresti domiciliari nei confronti dei compagni. Sì, allora guarda, prima di tutto comunque questa sì è una manifestazione cittadina, volutamente ho scelto di farla a livello territoriale, quindi da Centocelle al Pigneto, però è anche una mobilitazione che in contemporanea con altre città europee nell'ambito della campagna Stop Eviction Takes the City, cioè basta sfratti e prendiamoci la città, e qui in particolare a Roma si è voluta scenare sì, con la lotta per la casa, per cercare di dare una risposta forte alla repressione che si sta subendo già da qualche mese, gli arresti che sono stati operati nei confronti di militanti comunque dei movimenti per il diritto all'abitare. Ricordiamo anche il caso di Luca Paolo, per cui è stata ricercata a distanza di scarcerazione dal tribunale del riesame, e soprattutto questo voler ribadire comunque una volontà di lotta, certo di farlo nei territori, nei quartieri popolari, perché comunque si cerca di avere più forze e si cerca anche di basarsi su realtà che già stanno agendo contro gli sfratti, anche e soprattutto nell'ambito della lotta per la casa in questi territori, scegliendo appunto di venire qui nei quartieri popolari per comunicare meglio con quelli che sono gli sfrattati, le sfrattate, quindi i nostri soggetti di riferimento, senza andare ancora una volta in centro a fare la passerella unicamente per i turisti e la polizia, diciamo. Certo, una manifestazione territoriale dove appunto si è più ascoltati, si è all'interno dei territori dove appunto la gente vive e lotta quotidianamente. Senti, la composizione del corteo, una composizione com'è? Abbastanza, come dire, come ultimamente è accaduto, meticcia, come si suol dire, c'è una composizione variegata, che mi dici della composizione del corteo? Sì, sì, assolutamente, una composizione molto mista, c'è una perdenza, diciamo così, di ispezioni, ma non è neanche così, è giusto, diciamo, ognuno ha portato i suoi striscioni per cercare di raccontare qualcosa, la propria lotta. Striscioni che vanno appunto, ripeto, un'altra volta da Movimento per il diritto all'abitare, alla rete antisfratto territoriale, agli studenti medi del quinto municipio, alla comunità curda, ad altre realtà territoriali, però comunque diciamo che nei vari striscioni c'è una composizione mista fra compagni, compagne, lavoratori, occupanti di casa, sfrattati. Per cui sì, è una composizione mista che cerca di intrecciare le varie lotte e anche comunque cercare di conoscersi meglio anche sfruttando questo appuntamento del corteo. Bene, quindi per i compagni che volessero raggiungervi, voi siete ancora lì in piazza? Anche... Siamo su Via dei Castani e stiamo per arrivare a Piazza dei Gerani. Benissimo, ti ringrazio, casomai ci risentiamo più tardi. Ciao. Grazie a voi, buona giornata. Tenazo más. Ascoltato la corrispondenza della manifestazione di Centocelle contro gli sfratti e intanto continuiamo con le nostre selezioni di Radio Africa. Aye Bada è il brano che ci stiamo ascoltando, tratto dall'album L'African, lui è Tiché già Facoli. Badà, lui è Tiché già Facoli e allora andiamo ancora avanti con le nostre selezioni. Lui si chiama Sedes, al secolo Zongo Seidu, ed è un giovane che è nato nel 66 ad Aboisso in Costa d'Avorio e poi si è trasferito in Burkina Faso per poi approdare nel 2001 a Bruxelles, dove appunto è diventato molto popolare con soprattutto attraverso i microfoni di Africa Number One e poi insomma con i suoi album. Questo che il brano che ci ascoltiamo proviene dall'album Accroche Toi e il brano si intitola Reprends ton destin, riprendi il tuo destino, e lui è Sedes. Quand l'État s'emmerde, Chacun se démerde. Tu as une parcelle de pouvoir. Ooh. Et ça, il faut le savoir. Everybody got no right. Choisis pour nous unir. Ils ont préféré nous désunir. C'est comme s'ils voulaient nous punir de leur avoir confié notre avenir. Façon d'assurer un devenir. De ce mal qu'on m'a, allons-nous guérir. Reste vigilant pour ne pas périr. Élever la conscience, nous voulons réussir. C'est la seule façon d'assurer un devenir. Quand l'État s'emmerde, chacun se démerde. Tu as une parcelle de pouvoir. Et ça, il faut le savoir. Quand l'État s'emmerde, chacun se démerde. Tu as une parcelle de pouvoir. Ouh. Et ça, il faut le savoir. Sedes con questo brano Reprento Destin. 17.08 all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è 06 49 17 50. E allora ancora un'artista africana che risiede in Belgio, lei è Zapmama al secolo Marie Dolné, ed è una musicista che appunto nasce in Zaire, ma poi il padre viene ucciso durante i disordini che avvennero intorno agli anni, all'inizio degli anni 60, che portarono poi alla morte di Patrice Lumumba. E quindi parte, se ne va in Europa, in Belgio, dove appunto comincia a suonare, poi se ne andrà in Inghilterra, dove scopre il reggae. Il suo gruppo è un gruppo tutto al femminile, si chiamano Les Amama, e gli hanno avuto molto successo. E allora dall'album che si intitola proprio Zabama, il brano che vi faccio ascoltare è questo African Sunset, e loro sono appunto le Zabama. Ilanga bilishani le bafana mazibuye zinkomo zo baba. Sous-titrage Société Radio-Canada. Van Mamma in questo African Sunset. E allora a Milano continua la manifestazione dei leghisti e di casa Pound, slogan razzisti e xenofobi, ma la contromanifestazione della Milano antifascista anche continua ed è sempre più numerosa e decisa. E non è un caso che le camicie verdi della Lega, le camicie brune di Forza Nuova, insomma, sfilino insieme. L'obiettivo, a quanto pare, appunto, è quello di contestare la politica dell'immigrazione qua in Italia. Vogliono più respingimenti e soprattutto, insomma, agitano appunto la questione immigrazione per ottenere consenso, visto che appunto ormai hanno perso totalmente credibilità. Ma si mobilitano anche altre città, si mobilitano contro i fascisti a Bologna. C'è una manifestazione che ha un doppio obiettivo, quello di contestare il governatore Visco, che è ospite della festa del Mulino, il governatore della Banca d'Italia, e contestare Forza Nuova, che manifesta alle 19 a Piazza San Domenico. Quindi questa manifestazione antifascista della Bologna Libera antifascista è già partita, ci sono i collettivi, i centri sociali, i sindacati di base, e appunto ha contestato anche l'operazione Mos Maiorum, un'operazione che appunto sta partendo in questi giorni. Mos Maiorum in latino significa così come facevano alla moda degli antenati, ma si tratta praticamente di un tentativo di monitorare i flussi degli immigrati e di respingere tutti coloro che si trovano senza documenti. Una stretta repressiva che è organizzata dal Ministero degli Interni insieme a Frontex, e quindi, insomma, con la scusa di combattere l'immigrazione clandestina, cerca appunto di ancora una volta monitorare e reprimere tutti coloro che provengono da paesi non comunitari e che sono privi di documenti. L'obiettivo della manifestazione di Bologna è naturalmente anche quello di contrapporsi al comizio di Forza Nuova previsto per le 7 di sera in piazza San Domenico. Quindi questo attivismo dei fascisti a Milano, a Bologna, in piazze che hanno appunto una lunga tradizione di lotta antifascista, insomma, è rintuzzato dalla mobilitazione. E allora sono le 17:16, voi siete sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il contatto telefonico. Dopo gli Zap Mamma ci ascoltiamo un'altra bellissima voce, lei viene dalla Guinea, si chiama Sia Tolno, e il brano che ci ascoltiamo è Mamma, un brano dedicato appunto alla madre, e un brano che richiama alle tradizioni musicali della Guinea. Sia Tolno in questo Mama, bellissimo album questo di Sia Tolno, musicista della Guinea. L'album è African Woman, un album insieme a Tony Allen, molti brani che ricordano lo stile afrobeat. Questo invece in particolare è un ritorno alle sue origini della Guinea Conakry. Allora, con un'altra bellissima voce femminile, lei è Kajanin. Kajanin viene dal Burundi, lei era figlia di un diplomatico e poi ha studiato musica. Solamente a 7 anni già cantava a Bujumbura, poi si è trasferita in Zaire e questo passaggio in Zaire si nota anche nel suo stile musicale. Si è sposata lì e poi è andata a vivere in Belgio. Nel 1996 un album che ha avuto molto successo, Samboleira, e proprio da questo album ci ascoltiamo questo brano, Mbarik Fall, lei è Kajanin. lei Aisha Kone, l'imperatrice della musica ivoriana, classe 1957, lei canta in Bambara in Malinké, era figlia di un medico che non voleva che lei si interessasse di musica, si è sempre opposta appunto a che cominciasse una carriera musicale, e invece lei debutta la sua carriera musicale proprio nell'orchestra della radio televisione ivoriana come corista sotto la direzione di Bonkana Maiga, che è un musicista e un produttore molto importante per quanto riguarda la musica africana in generale. Lei ha suonato con gente come Manu Dibango ed è stata influenzata da Miriam Makeba, che ha incontrato durante l'esilio di Makeba in Guinea, con cui ha interpretato alcuni brani, e lei appunto ce la siamo ascoltata in questo brano insieme al Loco Band, che era appunto la sua band. 17:31, questa è Radio Africa e voi siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. 06 49 17 50, il contatto telefonico. E allora ancora sonorità dall'Africa, alla faccia dei Salvini, dei Borghezio e dei fascisti di Forza Nuova che stanno a Milano, stanno manifestando, ma c'è una contromanifestazione degli antifascisti milanesi sempre più numerosa e combattiva, e quindi loro vengono. Questi che ci ascoltiamo adesso si chiamano i Refugee All Stars, vengono dalla Sierra Leone, provengono da un'esperienza di vita difficilissima perché sono stati profughi appunto in seguito alle vicissitudini della guerra civile in Sierra Leone, un gruppo musicale che ha cominciato a suonare proprio in questi campi di rifugiati, poi è stato scoperto da una troupe televisiva canadese e poi appunto hanno cominciato la loro carriera musicale. Dal loro penultimo album vi faccio ascoltare questo brano, Tamag Bondor Su, e loro sono i Refugee All Stars. Refugee All Stars, in questo brano lungo ma trascinante dalla Sierra Leone, 17:39, questa